Italia in controluce. Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 con taglio di magazine e di inchiesta, in onda in due edizioni alle 6.30 e alle 13.30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Per un anno intero festeggiamo i 150 anni dall'Unità d'Italia. C'è stata una grande partecipazione di pubblico alle manifestazioni del 17 marzo. Ma qual è la percezione che gli italiani hanno dell'unità e di queste celebrazioni? Nicola Accardo ha intervistato il politologo Ilvo Diamanti. Questa partecipazione mi ha sicuramente sorpreso, nel senso che gli italiani non sono abituati a celebrare i simboli e i riti della loro memoria e della loro storia nazionale. Non vuol dire che non siano affezionati, attaccati all'unità, alla loro identità, alla loro storia nazionale. Quel che è vero è che però la vivono con una certa timidezza, con una certa distanza. Per cui, da cosa può venire questo orgoglio? Non so se definirlo orgoglio, sicuramente è una reazione alle minacce, ma più che alle minacce, ai dubbi sollevati esattamente su questo aspetto, sull'identità, sull'esistenza dell'identità e dell'unità nazionale. Per una volta sono stati meno timidi gli italiani. La piazza ha fischiato i leader politici durante le celebrazioni. Gli scontenti sono davvero i più attaccati alla patria, secondo lei? Attaccati alla patria non è esattamente ciò che io penso siano gli italiani. Gli italiani sono uniti e divisi allo stesso tempo, sono fortemente integrati nei loro contesti locali, sono fortemente attaccati alla loro famiglia, e questo produce in alcune fasi anche delle reazioni che sono frammentarie, che producono conflitto, che producono divisioni interne. Quanto incidono queste divisioni nel fatto che, come dice l'ultima indagine Demos, 8 italiani su 10 si dicono più infelici rispetto a 10 anni fa? Perché c'è l'impressione che anche altrove, ma soprattutto in Italia, ci sia una sorta di perdita del senso del futuro, sia del futuro economico, sia del futuro dal punto di vista sociale, sia del futuro dal punto di vista globale. E soprattutto gli italiani pagano molto le speranze dopo il 1992. Tangentopoli e poi la caduta della Prima Repubblica ha costituito sicuramente una cesura, però anche stata accompagnata da grandi speranze, quella di rilanciarsi, di cambiare. E questa è una fase di grande delusione, per cui gli italiani sono contenti e anche soddisfatti del loro passato, ma non del loro presente, e pensano al loro futuro con una certa angoscia. A proposito del passato, lei ha scritto che la memoria condivisa, quella della resistenza, quella del boom economico, fa in modo che gli italiani si sentano uniti. Come fanno le nuove generazioni, che questa memoria condivisa non l'hanno vissuta, ad essere ottimisti e potersi adattare? Sa, la memoria non è soltanto frutto e conseguenza di esperienza. Anzi, la memoria di una nazione è trasmessa attraverso le sue istituzioni, attraverso i suoi miti, attraverso le sue celebrazioni, ed è tanto più efficace quanto più risponde a una domanda effettiva. Oggi c'è una domanda di unità in Italia, e la domanda di unità è ben espressa da colui che ha simboleggiato sicuramente meglio di tutti gli altri questo sentimento in questa fase, cioè il presidente Napolitano, che oggi viaggia dal punto di vista della fiducia personale oltre l'80%. Come fare in modo che le diversità diventino motivo di orgoglio oltre che di divisione? No, nel momento in cui non sono diversità ma differenze e specificità, nel momento in cui siamo molti e non uno. Cioè, la Francia non è solo Parigi, ma è fortemente identificata in Parigi. Anche la Germania ha i suoi Länder, però ha Berlino soprattutto, Monaco, Francoforte, due tre grandi centri che la riassumono. L'Italia è molte, l'Italia è Italie, e questo è l'abbiamo detto fino adesso, un limite, un problema, ma è anche una risorsa. E in tempi in cui gli stati nazionali sono anche messi in discussione, in dubbio dalla globalizzazione, avere un'identità timida è plurale, può essere una risorsa, basta che la riconosci come tale. Lei ha parlato della Repubblica Federale Tedesca, che da poco è stata riconosciuta dalla BBC come il paese più amato al mondo. Non crede che il federalismo in Italia potrebbe in qualche modo conciliare le diversità con il senso dello Stato? Sa, io sono stato e sono un convinto federalista. Credo che un paese così differenziato al proprio interno abbia nel federalismo la forma di governo istituzionale più adeguata. Sa qual è il problema? Il problema è che il federalismo è nato in Italia ed è stato lanciato come una sfida politica ed è stato identificato come una bandiera politica e si è identificato con altre parole d'ordine che poi sono state usate ad esempio dalla forza politica che ne è la principale esponente e portabandiera quasi come equivalente, indipendenza, secessionismo. Questo rende italiani, molti italiani nei confronti del federalismo diffidente, primo. Secondo, non sappiamo di che si tratti, cioè bisogna precisare, chiarire che federalismo. A proposito di Lega, quello dell'Unità d'Italia potrebbe essere un autogol dal punto di vista elettorale? Non lo so, gli elettori usano la Lega non per la questione dell'Unità d'Italia, no? La usano per altri fini, la usano come un grimaldello, un martello con cui da battere sullo Stato per cambiarlo, per far sentire forti le loro. Certo, se questo diventasse il loro principale obiettivo, succederebbe come a metà degli anni 90, che sono, quando sono passati dal 10 al 4% in 3 anni. Era la prima edizione di Italia in Controluce. Siamo anche su Facebook, Twitter, raggiungibili via mail controluce@radio24.it. Torniamo alle 13:30.